Italia in controluce. Buon pomeriggio, sono le 13:31 minuti e 24 secondi e Daniele Biacchesi conduce Italia in controluce, l'approfondimento sulla cronaca italiana. La prima storia di oggi è ambientata all'Aquila. Il 6 aprile, un anno fa, un potente sisma colpiva l'Abruzzo e un anno dopo non si vuole dimenticare. Il 5 aprile ci saranno fiaccolate, riunioni del Consiglio Comunale aperte al pubblico, concerti e nella notte saranno letti i nomi delle persone uccise dal terremoto. Ma sono state accertate tutte le responsabilità penali per i crolli delle case? Raffaella Calandra. Sulle colline di Macerie, qua e là, è cresciuta pure l'erba e sotto ai tunnel di tubi che puntellano i palazzi pericolanti si aprono porte che conducono a case abbandonate un anno fa. Nel cuore dell'Aquila, 12 mesi dopo, le rovine sono ancora lì, insieme al dolore, alle lacrime e alla rabbia per quella scossa che alle 3:32 dell'ultimo 6 aprile ha sventrato una città intera e intere famiglie, uccidendo 307 persone. Da una parte le antiche pietre solitarie dell'originario centro storico, dall'altra i nuovi moduli abitativi provvisori sparsi in 18 frazioni. Nel mezzo un'inchiesta difficile, arrivata ora ad un bivio. Si celebra all'Aquila o fuori i processi sui crolli del terremoto? Qui non c'è la serenità necessaria, contesta la difesa degli imputati che ha chiesto il trasferimento a Campobasso degli atti per legittima suspicione. Insorgono i familiari delle vittime a difesa, dicono, di quell'esigenza di verità e giustizia invocata proprio all'Aquila dal capo dello Stato, Giorgio Napolitano. Deve esserci un esame di coscienza, si tratta di vedere effettivamente come sia potuto accadere che norme di prevenzione non abbiano avuto l'attuazione indispensabile, non l'abbiano avuta o per difetto di controlli o per irresponsabilità diffuse. Dalle responsabilità diffuse a quelle personali, il 28 maggio sarà il giudice per l'udienza preliminare a decidere se spetterà all'Aquila accertarle o ad altri tribunali. Di questo non parla il procuratore capo aquilano Alfredo Rossini, ma assicura che entro la fine dell'anno tutto il loro lavoro sarà finito. I 206 sequestrati abbiamo già trattati in buona parte, alcuni sono stati già archiviati perché era soltanto il terremoto che aveva fatto crollare le case, vecchie case, senza responsabilità umana. Per il resto, quando le nostre consulenze hanno indicato che ci potevano essere i profili di responsabilità o di corresponsabilità umane, abbiamo portato avanti le indagini e in alcuni casi appunto sono stati già fatti dei passi verso i processi. 30 in totale le persone accusate dei vari crolli, a cominciare dal cedimento della casa dello studente che uccise 9 ragazzi. Ingegneri, progettisti, direttori di lavori, vertici dell'azienda di accoglienza universitaria. Per 15 imputati, i PM hanno chiesto il rinvio a giudizio per omicidio e disastro colposo, insieme ad altri 2 per il convitto nazionale. 10 gli indagati per altri fascicoli della procura ancora aperti. In quelle mura crollate c'era davvero la sabbia? Come erano state costruite e perché sono venute giù così? Il procuratore Rossini. La fase più complessa sarà quella di riuscire a trovare in mezzo a tutte quelle macerie i punti di riferimento per identificare le persone che erano coinvolte nelle costruzioni, nella proprietà, in tutto quello che risulterà poi in seguito, perché abbiamo trovato del materiale che stava dalle rovine, dalle macerie, scavando. È stato un lavoro molto complesso. Altra questione, che fine avevano fatto gli allarmi e le segnalazioni passate, come quella del professor Michele Mele sulla prefettura? Quel palazzo poteva resistere solo a terremoti meno della metà di intensità di quelli prevedibili massimi. Se poi li rapportiamo a quelli che ci sono stati... Considerando come l'Abruzzo e la zona dell'Aquila sia stata già in passato più volte colpita da terribili terremoti, vuol dire che quello che è successo in passato non se ne è tenuto conto Guardi, in un certo senso sì, perché se mi hanno detto verifica, quello che devo denunciare il fatto che poi non si sia fatto niente, io non ho avuto un cenno di riscontro a questa perizia. In quest'anno, dai loro improvvisati uffici della Procura, anche a queste domande i magistrati aquilani hanno cercato di dare risposta, volgendo però lo sguardo già anche alla futura ricostruzione per tenere lontane da quelle macerie e dai futuri affari le mani della malavita. Italia in controluce. Questa è la storia di un medico chirurgo che voleva diventare uno dei più importanti fotoreporter internazionali e che ha trovato la morte in Medio Oriente, colpito da un mitragliatore di un cecchino israeliano. Questa è la storia di Raffaele Ceriello e di una sentenza arrivata 8 anni dopo la sua morte. Il racconto di Gennaro Grimolizzi da Potenza. I giudici della 10ª sezione civile del Tribunale di Milano hanno riconosciuto al fotoreporter Raffaele Ceriello, ucciso a Ramallah il 13 marzo 2002 dalla raffica di un carro armato israeliano, lo status di vittima del terrorismo internazionale. Alla moglie, Paola Navilli, e alla figlia Carolina, che aveva appena 18 mesi quando morì il padre, sono stati riconosciuti i benefici della legge 206 del 2004. Il riconoscimento concesso dai magistrati milanesi è una novità assoluta per l'attività dei giornalisti freelance e potrebbe aprire la strada ad altre richieste di indennizzo. Il giorno prima della sua uccisione, Raffaele Ceriello rilascia ai microfoni di Radio 24 la sua ultima intervista, la sua ultima testimonianza dall'inferno di Ramallah, dove si fronteggiano soldati israeliani e miliziani palestinesi. Alecchi Nazionale, mi trovo qui al City Inn Hotel di Ramallah, io sono qui da più di una settimana e dunque noi ci troviamo in vista proprio del campo di Alamari, che è il campo profughi più grosso che Ramallah, che conta circa 8.000 residenti. Diciamo che intorno a mezzanotte e mezza abbiamo cominciato a sentire il rumore preceduto come al solito agli elicotteri, abbiamo sentito lo sferagliare dei cingoli, dei tank, degli EPC, cioè dei trasporti truppe degli israeliani, che hanno preso posizione in tutta la città e quindi intorno anche al campo. Questo a partire da mezzanotte e mezza. Intorno alle 2 c'è stata una sparatoria non lunghissima ma abbastanza nutrita, proprio in direzione del quarto piano qui dell'albergo, perché evidentemente un po' innervositi magari da qualche flash. Il padre di Raffaele, Giuseppe Ceriello, scomparso pochi mesi fa, ha sempre lottato affinché si facesse giustizia. Israele ha sempre respinto ogni responsabilità, rifiutandosi dal primo istante di collaborare con le autorità giudiziarie italiane. L'Italia, dal canto suo, non ha voluto estendere ai familiari del fotografo i benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo internazionale. C'è voluta una causa civile. Secondo il Ministero dell'Interno, costituitosi in giudizio contro la richiesta della famiglia del fotoreporter di origini lucane, mancava il nesso di causalità per considerare la morte di Ceriello un evento derivante da un fatto terroristico. La sentenza della 10ª sezione civile si è basata su un'interpretazione evolutiva di quanto emerso già nel primo processo milanese sul terrorismo islamico, con applicazione della legge 206 a fatti anteriori al 2003. Quanto stabilito dai giudici di Milano ha fatto però emergere una situazione particolare. Raffaele Ceriello è stato considerato vittima del terrorismo, proprio quel terrorismo contrastato e represso dalle truppe israeliane che hanno provocato la morte del medico con la passione per i reportage dalle zone di guerra. Italia in controluce. Voi sapete, ascoltatori, che da quando c'è Italia in controluce abbiamo chiesto ad una serie di scrittori, musicisti, intellettuali ed altro di raccontarci le città, di raccontarci i loro luoghi d'origine. Avete sentito nel corso del tempo storie più noir, come quelle raccontate da Piero Colaprico a Milano o Massimo Carlotto per il nord-est, e altre ne sentiremo. E dopo lo scrittore Marcello Fois, oggi il jazzista Enzo Favata torna a descrivere le bellezze ma anche i problemi della Sardegna. Marta Cagnola. suo ultimo CD, in trio con Marcello Peghini e Yuri Golubev, si chiama The Night of the Storytellers. I narratori sono quelli che lui ha incontrato a Marrakech, una delle tappe del giro del mondo che nell'album racconta con la sua musica e le sue fotografie. Ma il cuore per Enzo Favata è in Sardegna. Immaginatevi che noi siamo dall'altra parte del mare e la Sardegna ha un insieme di curve che di strade che se fossero messe dritte sarebbe strade per un posto molto molto più grande. Tutte le strade sono, non sembra che non terminino mai, tu stai sempre guidando e non arrivi mai nei posti, poi in realtà tutte le strade portano al mare e il mare ti chiude. E forse questa cosa del mare, dell'isola, fa parte del cromosoma proprio del popolo sardo. Non me ne abbiano, non sono un fondamentalista, ma di fatto siamo un popolo. E per cui la Sardegna per noi è un posto che si deve lasciare per forza, magari, ma poi si rimane sempre con il cuore. E poi si ritorna. C'è un sacco di gente che è andata a lavorare fuori e poi è tornata alla fine dei suoi giorni in Sardegna. In qualche regione del mondo dicono mal d'Africa, ma il mal di Sardegna credo che sia abbastanza simile a quello che chiamano mal d'Africa. Sassofonista, compositore, autore di colonne sonore, Favata è legato anche musicalmente alla sua terra. Mi sono innamorato della musica folclorica della Sardegna, che è molto molto legata a determinati criteri e determinate regole che non si hanno da nessun'altra parte del mondo. Curi a quattro voci gutturali, sì, in qualche altra parte del mondo c'è il suono gutturale delle voci, ma non organizzate in questa maniera. Questi strumenti strani che hanno 3000 anni quasi, che sono le launeddas, che sono uno strumento polifonico, ma chi l'ha detto che la polifonia è stata inventata in Francia nel 1200? Qua esisteva la polifonia quando ancora appunto non si sapeva manco cosa fosse. Pure la Sardegna ancora tutt'oggi è legata alla musica, come nell'accezione popolare, la musica per il battesimo, la musica per i matrimoni, la musica per stare con gli amici, la musica del funerale, la musica sacra, la musica che scandisce tutti i tempi del tempo. Quasi per restituire ciò che la Sardegna gli ha dato, organizza ogni anno il Festival Musica sulle Bocche, Jazz e altro sulle Bocche di Bonifacio, tradizionale appuntamento di fine estate. Il primo festival che ha portato i concerti all'alba, con 2500 persone sulla spiaggia di Rena Bianca, è venuto una volta Michael Nyman. Mi venne l'idea, ricordandomi le lezioni di piano, di portare un pianoforte sulla spiaggia a 2 metri dalla bagnasciuga e far fare a Michael Nyman, l'autore della colonna sonora di quel famoso film, e ha detto da lui ha fatto uno dei concerti più belli della sua vita. Ci credo, Michael Nyman con il suo pianoforte davanti alle Bocche di Bonifacio e le Bocche della grande Sardegna. E allora, avete sentito quest'oggi una puntata di Italia in Controluce composta da un omaggio e da un ricordo alle vittime e alle mancate ancora responsabilità penali per i crolli delle case all'Aquila. Avete sentito come invece la giustizia ha potuto in qualche modo ripagare, dopo, anche se solo dopo 8 anni, la storia e la figura di un fotoreporter morto in Medio Oriente, cioè Raffaele Ciriello, e poi la storia di un jazzista di un'eccellenza straordinaria come Enzo Favata. Italia in Controluce termina qui anche questa settimana. Vi ricordo l'archivio di tutte le puntate con i servizi sul nostro sito www.radio24.it. Potete comunicare con noi, con il nostro gruppo di Facebook Radio 24 Italia in Controluce, oppure le mail controluce@radio24.it. Lunedì alle 6:30 ritorniamo solo per un'unica edizione al mattino.